La sa star che c'era un cristian, fabbriciere di una comunità, le ha dato in paese confessarsi del prete, le arriva là che ha detto: prete, guarda, siamo amici e tutti quanti, noi altri due, ma bisogna che te conti. Son mia bonde a sarla de bestemar, ma par via, par cosa, non sito cattolico sicuro, ma son mia bonde. Cande qua, cande là, come nascordo di 2, 3, 7, 8 e così avanti, vengo qua, mi confesso, vado a casa, bestemo. Venga, dito, te confesso, bisogna che te concentri, che te pensi che la vita è la mia così, la mia solo bestemar, pensa della vita e fare il bene. Venga, ecco, confesselo tutto quanto, tutto bellezza, maraviglia, va a casa. 3 di dopo torna in drio là, porchi e madonne, conosco chi, pi buon salà bestemar. Allora il prete che ha detto: vieni qua, vuto proprio a salà di bestemar? Sì. Conti di far che prete? Allora fa il seguente: getta un paio di fiorini in scarcella, con 100, 200 conti. Loro ha detto: ciappa, va via in bodega, fa tutto il trucco di 5 reali, pianta scarsella e via. Quando che te bestemi, la prima persona che te catti, daghi sti 5 reali, ecco, cada bestema che te tiri te perdi 5 conti. Sei tomato, prete? Con tutto quel che bestemo mi finisco. Beh, ha detto, vuto a salare di bestemarsi o no? Ben pensando bene, ha detto, mi toccaria salare del buon, il signor non ha colpa. Beh, allora, fatto sì o no? Sì. Fatto segnale da croce, fuori la porta, dato via. Fuori la porta, pensierita a testa, ti intontasti 5 conti, quella catta su un paralepipedo più alto, strabucca, si levanta su una ongia, porca madonica, fuori una bestemma, se fuori 5 conti. Ciao, piatta, ma scarsella, ciao, 5 conti, via qui 5 conti, scarsella, prima persona che catto, lascia starti, là della scianda, che viene una signorina di quelle. La figlia, ciò che la saccoletta, che la pare attorno a sta saccoletta, no? E lui prova, guarda, quella là, se la felisarda, ci fammi 5 conti. Dato dritto, banda ela, che... Ho detto, ecco, tolore sti 5 conti, che è 30 reali. Cioè, mi abboni dare in testa, ma voilà, andiamo, ciò fa 5, che è anche massa. Si tomata, che è 30 reali. Lui che ha detto, ciappa 5 conti, che sono venuto del prete, che adesso che è 5 conti. Oh padre, perché è freghe sveglio?